creato l'uomo che sopporta la tentazione, perché una volta superata la prova riceverà la corona della vita, che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Confido in Dio, non ho timore. Chi potrà farmi del male?